Italia in controluce. Il pomeriggio si apre con Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia, la cronaca, la politica delle città, ma anche la cultura e lo spettacolo. In studio Daniele Biacchessi. Oggi la pagina è dedicata alla cronaca nera, all'informazione, ai delitti e alla TV. Dopo il delitto di Iara il binomio si ripropone sempre più spesso negli ultimi tempi. È una storia di grandi ascolti, ma questa volta anche di vite rovistate, frugate in ogni angolo, di dettagli e di linguaggi sempre più urlati davanti spesso alle telecamere, cioè processi che si fanno in televisione, processi o inchieste che si fanno in televisione. Raffaella Calanda è andata dietro le quinte di alcune trasmissioni e sabato, lo ricordo, alle 13.15 in Storiacce torna proprio sul delitto Iara. Del cadavere rimane soltanto il busto parzialmente bruciato. Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme in una stradina isolata. Ora si chiama Iara, l'ultimo corpo senza vita passato dal buio di 3 mesi di ricerche alla luce alogena dei riflettori delle telecamere puntati sul campo che l'ha nascosta o sulle strade della comunità che l'ha cercata. Ora si chiama Iara ed aveva 13 anni, l'ultima vittima di un delitto diventato un grande caso di cronaca nera. Prima di lei ci sono state Sara, Meredith, Chiara, Desiree e tante altre ancora, la cui vita e poi la morte è stata spesso non solo raccontata, ma scandagliata e frugata in ogni angolo, aggiornata a puntate come una soap opera che ad ogni episodio tiene avvinti i suoi ascoltatori con dettagli e sfumature, e come i fan dei divi talvolta vanno a chiedere autografi, così capita che gli appassionati del macabro viaggino verso garage, boschi e villette divenuti set del piccolo schermo. La cronaca nera piace, lo dice lo share delle trasmissioni, lo conferma il gradimento degli articoli e le vendite di libri ad essa ispirati. La cronaca nera appassiona, ma come e quanto è raccontata? Nei telegiornali uno spazio enorme le notizie di cronaca nera. Troppo dunque per il capo dello Stato Giorgio Napolitano, ma dopo che, da Cogne in poi soprattutto, la cronaca nera è diventata un punto di forza dei più salotti televisivi, sono comparsi plastici, macchine della verità, esperti di plastica facciale, simulazioni di delitti o autentici coltelli. Si sono sfogliati i diari delle vittime, ma raccontati in lungo e largo anche i loro segreti più privati. Tanto che ora il direttore generale della RAI, Mauro Masi, poco dopo la notizia del ritrovamento del corpo di Iara, ha voluto raccomandare sobrietà, un'indicazione che Lamberto Sposini, uno dei conduttori della vita in diretta, trova preventiva e moralistica. Credo di aver raccontato particolari, sì, ma in tutte cose che potevano e dovevano, secondo me, essere raccontate. Io credo che tutti i genitori del mondo, di fronte alla storia di Iara, non possano che essere colpiti. Sono due limiti. Uno è la coscienza professionale di ognuno di noi. L'altro limite, se uno non vuol vedere un programma in cui ci sono troppi particolari, non lo vede, cambia. Che cosa ne pensi della lettera che il direttore generale Masi ha mandato ai direttori di rete, sollecitando una sobrietà negli approfondimenti a proposito del caso Iara? Non sono d'accordo, perché mi sembra uno scrupolo vagamente moralistico. È vero che i bambini, ci sono le fasce protette, però il buon senso mi fa dire che nel pomeriggio i bambini non sono lì a vedere per esempio La vita in diretta. Se un programma sta trasmettendo una cosa che non va molto bene, io papà impedisco a mio figlio di vederlo. Secondo te è stato un richiamo un po' preventivo? Sì, forse ha precorso un po' i tempi. La storia di Iara purtroppo va raccontata anche attraverso i risultati dell'autopsia. Si deve dunque davvero passare attraverso tutti i dettagli per raccontare certe storie fatte di corpi, delitti e assassini? È una scelta del cronista, delle testate, ma anche, secondo ormai un veterano del genere, Piero Colaprico, inviato di Repubblica, di differenze d'epoca. Sedicenti esperti, appena purtroppo è stato trovato il cadavere di questa povera ragazzina, c'è stato chi ha detto che era chiaramente un messaggio per gli investigatori, semplicemente lei era lì da 3 mesi, però la gente è abituata a sparare quello che gli passa per la testa senza il minimo riscontro. Gli approfondimenti televisivi vanno a caccia di qualcosa che è più vicino all'intrattenimento, ma soprattutto fino a che punto si possono raccontare i dettagli della vita delle persone e della morte delle persone. Questo è appunto il tema ed è una domanda seria. Quante volte ha scelto di non raccontare dettagli? Devo dire che d'accordo sempre con i vertici del mio giornale ho sempre cercato di non raccontarli. Basta far capire com'è la situazione. Mi ricordo uno dei primissimi casi che ho seguito negli anni '80 ed era Mary D'Amelio, una ragazzina uccisa mentre tornava a casa. Erano anni in cui si arrivava accanto al cadavere. Nessuno di noi a quei tempi osava raccontare tutto quello che aveva visto, perché esiste una forma di pietas. Giorgio Bocca, Enzo Biagi, Montanelli non parlavano mai di mutande abbassate. Una volta un ergastolano mi ha detto: ma secondo te non ho il diritto di essere dimenticato? I dettagli taciuti per pietas, il diritto all'oblio. Altra prospettiva invece, ma anche altre esigenze tecniche, sono quelle scelte dai conduttori di approfondimenti televisivi, come Quarto Grado su Rete 4, che al caso Scazzi ha dedicato 7-8 puntate e siamo stati i primi a parlarne, rivendica il conduttore Salvo Sottile. Credo che sia il più grande giallo irrisolto dei nostri tempi. Ovviamente, come in tutte le cose, si è esagerato, perché il clamore mediatico suscitato da Avetrame, che è diventato quasi un fumettone di cronaca nera, ha fatto sì che la gente si appassionasse talmente a questa storia che quasi ne rimanesse imprigionata. Al di là dello specifico della vicenda di Sara, secondo te è giusto andare a sviscerare e a raccontare anche ogni singolo particolare più o meno scabroso? Secondo me è giusto raccontare, non è giusto indugiare e cercare particolari pruriginosi. Io sono stato fortemente critico verso il silenzio stampa chiesto sulla storia di Yara Gambirasio. Forse se si parlava un po' di più, probabilmente il fiato sul collo messo sull'assassino avrebbe agevolato le indagini. All'opposto, guardando invece ad Avetrana, l'immagine di Michele Misseri è diventata addirittura un costume di carnevale per bambini. Nel vostro Quarto Grado tu pensi che siano andati un po' oltre? Posso dire che se è stato commesso qualche errore all'interno della nostra trasmissione è stato commesso in buona fede. La nostra mission principale è quella di avere sempre la vittima come punto di riferimento. Per esempio i genitori di Yara Gambirasio, non siamo andati a cercarli, a braccarli. È giusto tenere in vita una storia anche quando ci sono solo piccoli particolari nuovi? I dettagli sono fondamentali. Ecco perché a volte noi torniamo su una storia anche quando abbiamo pochi elementi in mano. Siamo a casa di Michele Misseri. Questo è il racconto della nera, sempre più spesso, è anche fatto di fughe in avanti poi smentite, di indagini in cui compare di tutto, dai laboratori ai medium, dagli elicotteri ai cani, e la scena del delitto diventa un set per un unico romanzo popolare, sempre più difficile da raccontare, secondo un'esperta di corpi come Cristina Cattaneo, anatomopatologa che si sta occupando ora dell'autopsia di Yara. Così parlava un po' di tempo fa su Radio 24 con Gianluca Nicoletti. Io condannerei l'uso che si fa morboso di questi casi. Sono contraria a parlare di casi aperti che sto trattando, ovviamente, o che stanno trattando colleghi in televisione. Questa è una lotta che darò fino alla morte, credo. I dettagli della cronaca animano anche il genere letterario del noir. Donato Carrisi, autore di Il Suggeritore. La cucina di casa mia è il luogo deputato alla raccolta degli articoli di cronaca, appesi in maniera meticolosa sui muri. Qual è la cifra della differenza di un unico racconto? Forse il linguaggio, secondo Stefano Bartezzaghi, studioso di parole e critico televisivo dell'Espresso. Una volta era il delitto efferato, si usano parole come orrendo. Quando la cronaca vuole anticipare l'effetto che desidera fare, ecco che il linguaggio ha già perso oggettività. Quindi compaiono parole come mostro, orco, bestia. L'azione bestiale, e poi ci sono lo strazio, l'urlo. Quante volte leggiamo urlo? E io tutte le volte sobbalzo, perché capisco che mi vogliono spaventare, e invece è la realtà che è spaventosa. C'è stata, secondo lei, una spettacolarizzazione che dalla televisione ha avuto i suoi effetti anche sul racconto scritto? Per forza, perché la forza appunto dell'immagine commentata ha costretto tutti gli altri a seguire. Soprattutto da quando la televisione viene fatta ragionando proprio esclusivamente sui numeri, su un caso di quelli famosi, scatenano tutte le trasmissioni possibili e immaginabili. A quel punto, diceva una canzone di Enzo ingannati, l'importante è esagerare. Mi pare che in quest'ultimo caso sia stato molto interessante il possibile argine alla ondata dei mass media. Il modo e l'intensità del racconto dipende anche dagli interlocutori, perché sia ad Avetrana le stesse persone vicine alla famiglia della vittima e poi a loro stesse coinvolte nelle indagini erano diventate protagoniste con i media. In questo caso del delitto di Chiara, i familiari si sono chiuse prima nell'attesa, poi ora nel loro dolore. Penso che ci sia una sorta di complicità. I nostri amici giornalisti che si occupano di argomenti invece come il gossip ci raccontano che i VIP che non vogliono andare sulla prima pagina a ogni nuovo amorazzo ci riescono benissimo. Quando non succede, come è capitato alla mamma di Sara ad Avetrana, che dalla finestra entri il re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Grazie a Raffaella Calanda, sono le 13:44 minuti e 2 secondi, avete ascoltato la puntata odierna di Italia in Controluce, esattamente la seconda edizione. Siamo su Facebook, Twitter, sul nostro blog su radio24.it oppure via mail, rintracciabili via mail, controluce@radio24.it. Domani alle 6:30 su Radio 24.